prima edizione ufficiale del Bambagia Fest, come nasce l'idea? Ma guarda, in realtà l'idea non esiste. Esisteva più che altro la necessità di fare qualcosa, perché siamo in un periodo in cui tutti i festival di autoproduzione, comunque con questo spirito, insomma, che non avessero grosse risorse finanziarie dietro, sono tutti stati, diciamo, falciati tra la situazione sanitaria e la situazione economica. Quindi principalmente la mia idea è stata, non c'è nessuno di questi festival, nessuno riesce a organizzarlo, ci provo a farlo e vediamo che succede. Poi per fortuna ho trovato un posto, questa tenuta Spadoni, che è una tenuta agricola gestita da dei ragazzi che ci coltivano, hanno un orto e tutto, e mi hanno messo a disposizione questo posto e, diciamo, è stato un ottimo inizio per cercare di partire con qualcosa che non era un'idea, ma era proprio una volontà, perché era molto più già sul pratico come concetto che un'idea di cercare di portare realtà e cose. A proposito di pratico, diamo magari un po' di informazioni appunto su come raggiungere il posto e come si svolgerà la giornata. Allora, guarda, per raggiungere il posto è molto semplice in realtà. C'è l'11, un autobus che passa accanto all'autostazione, alla stazione centrale di Bologna, che porta direttamente lì. Il festival si svolge in questo posto che è appena dietro Corticella, più o meno, e insomma, quindi anche collegato in autobus, è abbastanza tranquillo come situazione, ci si arriva autobus e 5 minuti a piedi, niente di impegnativo. E invece il programma delle giornate sarà abbastanza pieno, perché abbiamo avuto davvero tantissime risposte, diciamo, durante la chiamata agli artisti, perché anche col fatto che, non essendoci molto in questo periodo, appena è uscito questo, diciamo, questo evento, c'è stata molta attenzione sulla cosa. E quindi più o meno da mezzogiorno a mezzanotte abbiamo un programma continuo di workshop. Ci sarà un workshop di trucco drag, workshop di ricamo, workshop di stop motion, e ci saranno concerti tutto il giorno di davvero qualunque genere di musica, ci sarà un tavolo di D&D, di giochi di ruolo, ci sarà davvero tantissimi tipi di attività e per tutto il giorno, quindi siamo molto contenti di questo. Ci saranno anche presentazioni di libri e fumetti. Possiamo fare qualche nome di chi sarà presente con i suoi workshop o le sue presentazioni? Allora, delle presentazioni principalmente sono, diciamo, autori di fumetti, e ci sono Snuff Comics, che sono una realtà, sono due, diciamo, autori, editori che si occupano di fare queste raccolte di fumetti snuff, quindi molto violenti in realtà, però c'è un range incredibile di artisti coinvolti in questa cosa, e se non sbaglio adesso sono al 18° numero che stanno presentando, e essendo anche, diciamo, due persone abbastanza adulte, io credo, cioè, li stimo moltissimo, sono due persone con una cultura molto profonda, c'è una presentazione loro, a me interessa moltissimo, insomma, chiunque si imbatta anche per caso poi si rende conto dei soggetti. E oltre a Snuff Comics ci sono, vengono ad esporre anche personaggi tipo Zuzu, c'è gente che ha pubblicato con Feltrinelli, bravi ragazzi, e poi ci sono i ragazzi del Donner Club, che è un collettivo molto attivo a Bologna, sempre di fumetti, tutti i ragazzi dell'Accademia, ci sarà anche qualche tatuatore, veramente sarà pieno di situazioni. E di musicisti vengono, cioè, sarà Andrea De Franco, Tabanelli, che sono dei ragazzi sempre che, diciamo, sono molto attivi nella scena a Bologna, sono spesso al Freak Out, al Micasa, o comunque nelle ultime situazioni vive rimaste. Sta venendo una ragazza da Torino che si chiama Fatal B, che ho personalmente fatto venire perché ci tengo molto. Lei fa, diciamo, musica elettronica analogica, un po' tipo Grimes, però veramente da sola. E quindi, insomma, di personaggi ce ne sono. Poi adesso in questi giorni usciranno anche su Facebook, insomma, dei programmi specifici giornata per giornata con tutti gli orari, certo, con sia le presentazioni, insomma, che gli artisti che si esibiscono. Bene, quindi direi che sarà sicuramente un fine settimana ricco di eventi a cui partecipare. Io ti ringrazio per questo approfondimento e ricordo il 3-4 ottobre Bambagia Fest. Grazie mille.